Ondivago, un programma ideato e condotto da Max Ponte. Alla parte tecnica Alessandro Gianotti. Ondivago.com. In questa puntata di Ondivago vi propongo un racconto naturalmente ispirato al mare. Un audio racconto che è nato accanto al mio interesse per i maiali di mare. I maiali di mare erano dei piccoli sommergibili, orgoglio della Marina Militare Italiana. In realtà erano veri e propri siluri, cavalcati e guidati a vista d'occhio. Il protagonista ne eredita uno appartenuto al nonno. Non resiste alla tentazione e, dopo averlo messo in acqua, va incontro ad un naufragio che lo porta in un surreale mondo marino. Un giorno son finito sott'acqua. Un racconto di Max Ponte. Un giorno son finito sott'acqua e ho recuperato l'ossigeno scomponendola. Con l'idrogeno che restava ho riempito i bomboloni per il mio maialetto di mare. A bordo del siluro Dantan mi godevo l'Océan. Mi sparavo lunghissime vasche che neanche in centro. Guardavo le tipe che facevano sì shopping, uscivano dalle boutique coralline con scarpe tacco 30.000, push-up per camminare sulle acque come quel Cristo. Solo che lui non aveva le tette e non andava all'Isola dei Famosi. Mi hanno detto che gli piaceva il pesce, spesso faceva il bis, ma le cozze pelose, quelle no, manco morto. In giro per l'Océan ci sono un mucchio di Rabadan. Ho scoperto che esistono branchi di tonni già inscatolati che muovono la linguetta per limonare. Un giorno mi fanno: se tu tiri dritto dopo il secondo corallo a destra, abita uno snorchi, uno dei pochi rimasti dopo la fine del cartoon. L'etnia si estinse per un chicchessia. Io gli dissi che preferivo i puffi e lui replicò: una volta ne passò uno di qui, uno spiaccicato, un cadavere squisito, fu puffato da un'alga puffivora. Sono cose della vita. In quel umidissimo mondo tutti vivevano bagnati e contenti. Quando vidi una Venere ignuda uscire dalla sua conchiglia con vista mare, mi ritrovai più bagnato di prima. Cercai di inseguirla facendo sgrufolare il maialetto in curva. Ma lei era partita con una razza di pesce razzo e io razzolai mesto. Avrei pur trovato una creatura compiacente, una cavalluccia da marinar col fior del mio zucchino, nelle sere estive, guardando le ancore cadenti. Ad un tratto il mio mai eletto si inchiodò. Aveva preso un granchio e se ne stava gustando la polpa allo scoglio con un filo d'olio di merluzzo nel motore. Beata bestiola da modernariato, residuo bellico da mercato di Porta Palazzo. Se mio nonno non fosse stato un incursore della marina, non l'avrei mai incontrata, pensai. E ora sarei qualche metro sopra, in crociera, a sputtaneggiare con quattro veline mamme incluse. Sono rimasto a piedi, risolsi. O meglio, con le pinne. Niente fucile e occhiali annebbiati. Ci manca solo lo squalo, poi siamo al completo. Con la sfiga che ho, rimane a casa a guardarsi l'omonima pellicola ed io ad annoiarmi in questo immenso acquario. Di partire non se ne parla, conclusi. Avevo imparato a ricavare l'ossigeno da una caraffa brita col filtro modificato. Scindevo l'acqua marina in ossigeno e idrogeno. Un regalo di San Valentino, apparentemente inutile, mi aveva salvato. Me l'ero portato dietro con la speranza che fungesse da desalinizzatore. Il risultato si rivelò superiore alle aspettative e con una cannuccia attingevo beato a quella fortuna. Dunque, rimuginai. A casa tengo innumerevoli bollette da pagare. La DSL è staccata per insolvenza. Mi hanno pignorato il buco del cesso e devo anche aver sbagliato candeggio. Per ricordarmelo, il padrone di casa mi manda una raccomandata al giorno. È molto gentile da parte sua. Se sapesse che non pago l'affitto da un anno, gli darei una grande delusione. Devo, mi proposi, mandargli una cartoconchiglia. È un buon indigeno subalpino. La metterà sul suo comodinosauro quando pensa ai condomini sul far della sera, mentre fa fuoco sfregando le bicche esaurite sui blocchi di fatture da macero. Quelle fatture del boom economico, quando si sputava in un serbatoio e si faceva 100 chilometri di botto, quando si nasceva a tempo indeterminato e non dovevi mai scrollarti l'uccello. «Guardo un mare quanto è bello!» canticchiavo. «Sto diventando un salatino e mi ricicleranno per un after hour!» ipotizzavo. «Finirò nella bocca di una sedicenne della collina che sogna di fare un provino per un posto al sole». Indecente, io sceglierei sicuramente Tempesta d'amore. Fa molto Sturm und Drang e non buttano le cartacce per terra. Destino crudele. In quel momento il mio prode maialetto finì in un nugolo di comari sarde e in 4 e 4 occolo venne squartato, guarnito e peptonizzato. Mitici mitili si rovesciavano dalle risa mentre, per dimenticare, mi ponevo quesiti filosofico-calcistici sui ben rotondi pesci palla e sul tempo di cottura delle uova della gallinella di mare. Blimblanavo davanti agli oblò delle vetrine, sorseggiando l'arcovinello degli antichi vascelli romani. Luoghi in cui gozzovigliare nelle notti d'alta marea. Avete mai visto una sirena che fa acqua gym? Quello sì che è uno spettacolo in grado di smuovere i fondali. Una serie di indimenticabili movimenti squamatori, danze da far venire l'itterizia ad un barracuda del Mar Giallo. Svariati metri sopra la mia testa, prima di lanciarmi in acqua con l'eredità del lavo, avevo lasciato la mia ragazza. Ironia sortita, si chiama Marina, ma io non la volevo al più presto sposare. Ne mandai un SMS a Tenuta Stagna, cara Marina. Dove io mi trovo sono trovate mie, certo è che preferisco star qui che dentro di te. Mi mancherebbe l'ossigeno e il tuo meteorismo risulterebbe superfluo. Sentivo una triste salsedine nello stomaco. Quel maiale era l'unico ricordo che avevo di mio nonno. Incursore della decima mas. Si immergeva per minare gli scafi inglesi e farli brillare. Dopo l'armistizio nascose il mezzo in cantina col cartellino «Caldaia da rottamare», questo per non destare sospetti. All'apertura del testamento il notaio mi confidò che la caldaia di cui, fra i sogghigni dei parenti, venivo nominato erede, era qualcos'altro. A causa delle assassine della Costa Smeralda, l'avevo persa ed ero ridotto ad un organismo monocellulare. «Quale sarà il mio destino in codesto mare?» mi chiedevo. «Vorrei che qualcuno leggesse le mie carte, facesse ruotare il compasso per scoprire la mia rotta». All'improvviso, una anemone telepatica, con tanto di borsetta della spesa, mi segnalò la presenza di un oracolo nei pressi di una grotta da presepe. Entrando mi sfregai le pinne per non sporcare, un colpo di coda mi mise a sedere. Era un delfino. Leggeva di tutto emettendo ultrasuoni, carte, cartine, cartucce, tetrapack, MP3, tarocchi e mappe del tesoro taroccate. Mi ritrovai spiazzato da sì profonda slinguata della fortuna. Abbracciai l'oracolo Delfino e gli chiesi di mostrarmi il futuro. Il saggio, dopo un pippone sugli willy che finiscono nel tonno del supermercato e un altro sui pesci al cartoccio, esordì. «Lancia questi sassolini, son calcoli di balena e ti dirò». «Io vedo che sei in cattive acque, caro umano. A parte il fatto che ce l'hai nel fracco», fece il cetaceo, «facendo i logaritmi per capirci meglio, in culo alla balena e buon viaggio». Il consulto mi costò 4 aringhe e non mi convinse per niente. In fondo, se certi delfini finiscono nell'insalata di riso, deve pure esserci un motivo. Tentai di consolarmi con un vongo gelato, ma davvero quelle palline di mollusco mi facevano venire il mal di mare. Era tempo di Olimpiadi da quelle parti. Tutti facevano festa e mangiavano di brutto. Gli Anellidi gestivano una manifestazione immensa in cui primeggiava il salto con l'astice e a cui seguivano 2 anni dopo le Olimpiadi dei surgelati. Era un tempo, quello, in cui me ne andavo misurando quei profondi lidi e avevo voglia di fare un mucchio di cose sbagliate, o quantomeno sbagliatine, con uno spruzzo di riprovevole illegalità. Entrai nel centro commerciale La Fondazione. Era ricavato da una vecchia nave mercantile. Mi precipitai nel settore musica. Un'orata mi accolse nel reparto sciorinandomi tutti i risultati della scatola. Negli ultimi anni avevano avuto un fattucchierato enorme e tutti i pagamenti in liquido erano stati rigirati in paradisi fiaschettali. Prima di svenire dall'oratura, la interruppi. «Mi perdoni, ma sono qui per un disco». «Mi dica, son tutta branchie». Cercavo l'album Anytime di Alessandro Scopece, quello con Night on the Beach. La zelante pescelessa, colta impreparata, impanicò, boccheggiante e ferita dall'amo della mia trubadorica questione. A quel punto mi allontanai, colto da un senso di salvaguardia della fauna marina. Vagai in una collezione di sexy polene gonfiabili e dopo pochi minuti approdai al reparto Oggetti umani, meglio i vulcani. Un pesce clown intratteneva il pubblico mostrando la merce. Davanti alla manifesta inspiegabilità di quegli elementi, si rideva a piene branchie emettendo bollicine Perrier. Si trattava di cose a noi comuni: una scatola con i resti di pizza, posate sporche, un telecomando, un preservativo bucato, i pannolini di un bambino, le chiavi di una macchina, una siringa e un manifestino bordato di nero. La scena mi mise molta tristezza e rabbia. Quella popolazione sotto il livello del mare insultava la nostra millenaria e nobile cultura. Ci voleva una delle mie cose sbagliate o sbagliatine, dotate di uno spruzzo d'affascinante illegalità. State ascoltando Un giorno son finito sott'acqua, un racconto di Max Ponte. ondivago.com. Fra quegli oggetti inanimati vidi che erano celate alcune superbe mollette da bucato in bambù. Le cercavo al CRAI da anni. In via Bertollè erano apparse e scomparse come un'esotica aura di pulito davanti a un colombo morto. Impugnai 3 mollette, me le misi nelle mutande e mi avviai verso l'uscita. L'atto mi parve sì candido da farmi sentire in colpa e farmi accaponare il terga. Davanti all'oblò, l'oblò di uscita, il sistema anticazzeggio mi individuò dalla mia nuotata di noccolata da ragazzo della prateria. Il polipo giurato mi fermò, mi pregò di svuotare il pacco e di non provare a fuggire, altrimenti mi avrebbe inchiostrato. Facendolo, inoltre, sarei finito dritto nelle fauci dell'antibipedismo. «Con tutti questi scodati che ci sono in giro», fece un vecchio sgombro, «ormai non c'è più sicurezza». 10 minuti, il lampeggiante di un pesce fluorescente e mi ritrovai in squalo missariato. La cosa non sembrava mettersi bene. Lo squalo missario mi notificò un'accusa per furto con cazzeggio aggravato. «Quegli oggetti sono spazzatura», dissi, «che per di più non appartiene alla vostra cultura». «Questo potrei pure capirlo», sdentò lo shark. «Ma l'aggravante peggiora la situazione. In più c'è da considerare il luogo di ritrovamento della refurtiva». «Eh?» «Aver celato la refurtiva nelle mutande è considerato reato contro il patrimonio». «E quale?» «Quello che rilascia la graziosa scia dorata che vi contraddistingue come specie», fece il pesce cane, fissandomi intensamente in mezzo alle gambe. «Il nostro governo ha siglato da poco il protocollo dello scroto, proprio per evitare che simili fatti si ripetano». Dunque, stavo dicendo... Mi dica, signor squalomissario. Lei ce li ha i documenti? Quali documenti? Permesso di soggiorno balneare? Boa antropometrica? Tessera simpatia? Veramente no. Son finito qui perché mi si è inchiodato il maiale. Solo sono pappato le sarde. A me non interessa cosa fanno i pesci piccoli. La spediremo in un centro di permanenza temporanea prima di essere rimpatriato nel regno dei bipedi. Che cosa pensa lei? Che io sia uno squalo qua qua qua? Per carità, si figuri! Non faccia il furbetto. Ha già fatto il furtetto e non era un frutteto. In questo ufficio abbiamo nascosto un'anemone telepatica da 8 GB, espandibile con un iPod incorporato. Mi infilarono una spugna viva in bocca per ammutolirmi e mi bendarono con un'alga. Fui trasferito e privato di tutti i miei diritti. Una telefonata, un avvocato. Bello il mare. Adesso capisco perché gli snorchi si erano estinti, pensai. Devono essere diventati pericolosi oppositori. Il centro di permanenza temporanea era collocato in una cavità con un altare al centro e decorazioni floreali in plastica. Ebbi la sensazione di essere già morto, che mi stessero facendo un salmastro funerale. Guadagnando il fondo della grotta, venni spogliato dei miei oggetti personali, tranne il mio filtro Brita salvavita. Al posto mi venne messo un riccio di mare. Se avessi tentato la fuga, il riccio mi avrebbe fatto sentire le sue pungenti battute. Proviamo a reagire, pensai. Se sento dolore, vuol dire che sono ancora vivo. Tentai di spinnare via. Il riccio mi serrò il polso e incominciai a sanguinare. I was still alive e il grazioso peluche mi martoriava allegramente. Notai che una squadra di ragni velenosi presidiava l'esterno. Nell'antro oscuro scorsi un paio di lucine intermittenti e strani movimenti. Erano prigionieri umani che gesticolavano, un gruppo di sub che si faceva luce coi cellulari. Mi fecero capire che facevano parte di un'associazione di diving dell'Alto Adige e che la mamma aveva detto loro, sin da piccoli, di preferire gli sport invernali, ma loro non l'avevano ascoltata e quello era il risultato. La meno loco, mi raccontarono, era una grotta che alcuni divers utilizzavano per celebrare matrimoni in acqua. Quei matrimoni col velo che fa glu glu e che si vedono ogni tanto al TG ad agosto. Bella storia. In più non ero ancora riuscito a recuperare neanche un caffè. Coi ragni non si poteva parlare, gli altoatesini avevano preso a disegnare piste da sci sulla sabbia e mettevano pure i paletti con le conchiglie e studiavano i curvoni per redimersi e raggiungere la salvezza. Dopo 3 giorni di scassamento già vedevo le baite e avevo la sciolina alle pinne. I ragni, un bel dì, decisero di liberarci in mare aperto. Ci accorgemmo quasi subito, tuttavia, che non si poteva andare da nessuna parte. Eravamo finiti in una grande rete. I carcerieri si erano presi gioco di noi. Forse ci volevano torturare. O aspettare che ci finisse l'ossigeno. Il mio filtro non sarebbe durato più di una settimana e i loakers avevano succhiato bombole a manetta per sparare le loro minchiate. Nella notte la rete si strinse, ci sollevò e ci fece affiorare. Eravamo stati raccolti da un moto peschereccio di Lampedusa. Ci chiesero cosa fosse successo. Io gli raccontai del nonno, del maiale, delle sarde, dell'oracolo delfino, della fondazione, dello squalomissario, dei ragni, delle baite e i marittimi fecero. Va bene ragazzi, abbiamo capito, se continuate così vi rigettiamo in mare. Dopo un po' pensai, Meglio parlare un po' di calcio e di figa, che va sempre bene, così la gente pensa che tu sei normale. Come butta l'Inter di Mourinho? E la Arcuri si vede ancora in TV? Che gnoccolona, che pezzo di snacchere da fuori bordo, eh? Quando nominai l'Arcuri, il volto dei marinai si distese ed entrarono in un monacale raccoglimento. Avevano capito che ero uno dei loro. Mi gettarono un asciugamano e mi allungarono un termos di caffè. Al porto ci aspettavano centinaia di persone, furgoni con le orecchie, telecamere e fotografi. La voce del rientro dei dispersi in mare si era diffusa e ci avevano già paracadutato i contratti per un reality intitolato «Sotto il livello del mare son cazzi da cagare». Mezzo milione di euro a testa se avessimo litigato per una settimana dentro ad un acquario, masturbandoci nel tempo libero con una noce di cocco. Questo con la clausola di non far vedere troppo il membro per non turbare la sensibilità religiosa dei telespettatori. 100 metri e sarei sceso a terra. Dentro di me era un logorante pullulare di immagini. Portavo ancora il segno del riccio sulla pelle. Ragazzi, faccio io. Qui se diciamo la verità è un casino. Dicono che ci siamo fottuti il cervello, ci affidano i servizi sociali e saltano tutti i contratti. Chiafol, tu avere ragione, noi rischiare grossa inculata, rispose un locker che bontà. Propongo, aggiunsi, di dire che siamo stati rapiti da un gruppo di pirati che ci volevano far la pelle e che siamo riusciti a fuggire grazie al nostro coraggio. Avete presente MacGyver? Lei team? Yeah. Ecco, noi abbiamo agito allo stesso modo, un cacciavite, 4 bulloni, un'esplosione e ci siamo salvati. Geniale, davvero geniale, fecero i compagni di viaggio, abbracciandomi calorosamente. Fra la gente assiepata sul molo, intravidi Marina. Alta, mora, occhi verdi. Ero felice, stranamente felice di rivederla. Mi strinse forte. Indossava un vestitino leggero che faceva intravedere le sue forme. Spintonando sotto i flash che mi piovevano addosso, rientrai a casa. Ritrovai il mio appartamento pulito, le bollette erano state pagate, vasi di fiori, articoli di giornale, t-shirt con la foto dello scomparso e DVD di chi l'ha visto. «Senti, se ti raccontassi tutto, non ci crederesti», feci io. «E quello che hai sentito è una bella storiella che abbiamo pensato per raggirare i media». «Capisco», disse Marina spogliandosi. Intanto la guardavo e mi pareva rifulgere di una tremenda beltà. Si muoveva come quelle ammaglianti creature che avevo incontrato sotto i mari. Quel giorno ho caricato il maiale del nonno su un camioncino e son partito per Rapallo. L'ho messo a bagno e là è incominciato tutto. Le sarde, l'oracolo, la fondazione, lo squalo missario, i ragni, i loakers, le baite, i marittimi. «Sì, ho presente», disse lei. Marina incominciava a scodinzolare sotto le coperte. Si scoprì, mostrando il suo seno sodo. Abbassando la mano fra le sue gambe, la sentì più scivolosa del solito. Ebbi un brivido, poi palpandola non trovai più le sue gambe. Erano sparite. Il mio cuore sfarfallava. «Hai un travel gum?» le chiesi deglutendo. «Poi scoperchiai il letto di colpo». Marina era un pesce. Sì, insomma, un mezzo pesce, una sirena. E mi confessò a questo punto la sua doppia cittadinanza. Si trasformava in sirena solo a luna piena e io a quell'ora dormivo come un relitto. L'effetto durava un paio d'ore e svaniva in assenza di salsedine. «Brutta puttanazza d'alto mare!» l'apostrofai. «Potevi almeno risparmiarmi il maiale e tenerti ricci per la permanente. Vai a dare via il culo ad una motovedetta!» «Avrei dovuto regalarti un filtro brita ammuffito, bipede puzzone!» replicò lei. «Hai pure un brufolo sul naso. Cos'hai mangiato là sotto? Alghe fritte? T'avessero avvelenato!» «E tu?» dissi io. «Che hai fatto col tuo meteorismo? Hai ossigenato i baffi ai pesci gatto?» Dopo una serie di confronti culturali terra-mare, sputi, lacrime e singhiozzi, ci ritrovammo. Marina mi spiegò che aveva escogitato tutto questo per farmela pagare, per tutte le volte che mi ero ritratto davanti alle sue richieste di matrimonio. Inoltre mi confessò che il meteorismo era dovuto ad un tremendo incidente che le capitò da piccola. Ah! Ingoiare la bombola d'ossigeno d'una bambina sommozzatrice! Ma ora son guarita, mi disse, e questo grazie ad uno sciroppo a base di limone d'Amalfi e carboni ardenti. I primi hanno corroso il metallo, i secondi hanno bruciato l'O2 in eccesso. Splendido, no? Abbiamo deciso di sposarci, proprio nella grotta dove ero stato fatto prigioniero. Al posto del riso, gli amici ci hanno lanciato una rete per prendersi gioco di noi. Dopo 9 mesi si sono rotte le acque ed ora sono qui, con gli occhiali da sole, che passeggio. Ho fatto 3 reality e sto spingendo una vaschetta a rotelle. Avete ascoltato Un giorno son finito sott'acqua, un racconto di Max Ponte. Trovate il testo sul sito di Ondivago, ondivago.com.